da Chiara Badano. Ecco, condivido con voi questa bellissima vita, vita breve, lo vedremo, ma intensissima, piena di fede. Una roccia unica questa ragazza e questa vita, giustamente bisogna dire che è stata ripresa in buona parte da quella che è stata, sono gli scritti della vice postulatrice, che è la dottoressa Maria Grazia Magrini. E andiamo già a Chiara Badano. Chiara nacque il 29 ottobre 1971 a Sassello. Sassello è un paesino dell'entroterra ligure in provincia di Savona, che dipende però dalla diocesi di Acqui, che è in Piemonte. La mamma, Maria Teresa, aveva ormai 37 anni e pensate, dopo 11 anni di attesa, ricordava il lieto, atteso e quasi insperato evento con queste parole: «Non ci volevo proprio credere. Non dicevo a nessuna che ero rimasta incinta e cercavo di strapazzarmi il meno possibile perché il medico mi aveva spiegato che dovevo attendere una ventina di giorni prima del responso definitivo. Quel giorno Ruggero, che è il papà della nostra Beata, non si conteneva dalla gioia e cominciò a parlare della nostra gravidanza. E il quasi papà non volle mettere a rischio questo frutto tanto atteso del loro amore e si prodigava in mille modi per alleviare le fatiche della moglie, al punto da portarla in braccio su per le scale. Disse Ruggero: «L'amore verso mia moglie fece in quei 9 mesi un gran passo in avanti». E questa coppia meravigliosa, unitamente all'amore per il Signore, da quel giorno fu particolarmente grata e ringraziarono in modo particolare la Madonna, quella della Vergine delle Rocche, a cui il papà Ruggero aveva tante volte chiesto le grazie di un figlio. Nacque Chiara e quando aveva pochi mesi, Maria Teresa si ammalò di una presunta flebite che la costrinse a letto per 3 mesi. Ma lei, pur aiutata dalla sorella, non delegò mai a nessuno il compito delicatissimo della primissima educazione della figlia. Anzi, per accudire la piccola, aveva lasciato il proprio impiego. Raccontava: «Da sempre lavoravo nelle fabbriche di amaretti e temevo di patire la noia della casalinga, attiva com'ero, ma ben presto dovetti ricredermi. Capii l'importanza di restare costantemente accanto ai propri figli, non tanto parlando, ma essendo madre, cioè amando. Questa era la sola eredità che avrei potuto lasciarle, insegnarle ad amare». E fin da piccola Chiara mostrò subito un temperamento generoso, vivace, ma anche un carattere deciso, fermo. Un giorno la mamma, vedendo come nella sua stanzetta ci fossero troppi giocattoli, le invitò candidamente a darne qualcuno per i bambini poveri. Lei la guardò, rispose di no, che erano suoi. La mamma si allontanò, poi udì un brusio. Si avvicinò alla porta della stanzetta e scorse Chiara che separava i giocattoli. Questo sì, questo no. La mamma le chiese cosa stava facendo e lei le spiegò i criteri di quella divisione. «Non posso mica dare i giocattoli rotti ai bambini che non ne hanno». Questa mamma meravigliosa le educava attraverso le parabole del Vangelo ad amare Gesù, ad ascoltare la sua voce, a compiere tanti atti di amore. E lei, pur piccola, era affascinata da queste letture, tanto che pregava volentieri sia a casa che a scuola. Era una ragazzina aperta alla grazia, pronta ad aiutare i più deboli, e si correggeva docilmente, aveva un carattere piuttosto forte, e si impegnava a essere buona. Il suo desiderio allora era che tutti i bimbi del mondo fossero felici come lei, e in modo speciale amava i bambini dell'Africa, dopo che venne a conoscenza della loro estrema povertà. E in questo senso affermò: d'ora in poi penseremo noi a loro. E a questo proposito, a cui mantenne fede, seguirà presto la decisione di diventare medico per poterli curare. E proprio dai quaderni delle prime classi elementari traspariva tutto il suo amore per la vita. Era una bambina felice. E nel giorno della prima comunione, da lei tanto atteso, ricevette proprio in dono il Vangelo, il suo, e sarà per lei, dice, il libro preferito. E si impegnò così seriamente a mettere in pratica le parole del Vangelo che, pochi anni dopo, scriverà: «Non voglio e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio». E man mano che cresceva, maturò sempre più un carattere socievole, allegro, generoso. Manifestò presto anche un grande amore per la natura e per lo sport. E lo sport lo praticherà in vari modi, con la corsa, il nuoto, la bicicletta, il tennis in modo particolare. Socievole e vivace, riuscirà, dicevamo, ad educare il proprio temperamento e a diventare tutta ascolto, sforzandosi di mettere l'altro sempre al primo posto. Fisicamente bella, sarà da tutti ammirata. Ragazza intelligente, dimostrò immediatamente una precoce maturità. Sapeva sacrificarsi, era servizievole verso gli ultimi e sapeva coprirli di attenzione anche se doveva rinunciare a momenti di svago. In seguito dirà: «Io devo amare tutti, sempre e per prima». In definitiva, cari amici, mise in pratica l'insegnamento del Vangelo, vedere negli altri il volto di Gesù. Piena di sogni, di entusiasmo, a 9 anni scoprì anche il movimento dei focolari, dei focolarini, fondato dalla serva di Dio Chiara Lubick, con cui iniziò una filiale corrispondenza. E l'incontro con questo movimento nacque grazie ad alcune sue amichette, dalle quali venne a sapere di questo grande ideale che avrebbe trasformato, chi l'avrebbe poi vissuto, la vita di chi questo ideale l'avesse fatto proprio. E volle saperne di più. E l'incontro vero, quello diciamo che gli diede una grande spinta, avvenne un raduno delle giovanissime dei focolarini che lei descriveva in una lettera del 1980, tra un po' ve la leggerò. E proprio in questo movimento ella scoprì un modo di vivere, anche di pensare nuovo, quasi possiamo dire una risposta alla sua sede di Dio, e da quel momento in poi Chiara non sarà più la stessa. Proprio il 29 agosto di quell'anno, aveva 9 anni, scrisse la sua prima letterina a Chiara Lubick, appunto la fondatrice dei Focolarini, e scrisse così: «Carissima Chiara Lubick, per prima cosa mi presento, sono una bambina di quasi 10 anni, mi chiamo Chiara, come te, abito in un piccolo paese di nome Sassello in provincia di Savona. Io ti conosco perché il 3 maggio sono andata con i miei genitori a Roma, al congresso delle famiglie, e in mezzo a tutta quella gente con un binocolo sono riuscita a vederti. Quest'anno ho avuto la fortuna di partecipare alla mia prima Mariapoli, cioè gli erano gli incontri estivi dei focolari. Non sono andata con i miei genitori, ma ho scelto di andare con le Gen 3 in un bel santuario chiamato la Madonna del Pozzo». Una piccola notazione: i Gen 3 sono ragazzi che vanno tra i 9 e i 17 anni e sono praticamente la terza generazione del movimento dei focolarini. E la loro nascita risale al 1970, quando la Lubick, notando la loro personalità ovviamente diversa da quella dei più grandi, propose di dedicare loro una formazione specifica, una formazione di crescita spirituale specifica. E lei, Chiara Badano, continua in questa letterina che aveva scritto alla Lubick: «Quando la mamma mi ha lasciata, ero un po' preoccupata e mi ha detto: Chiara, adesso sei sola, cerca di comportarti bene. Ma io le ho risposto, mamma, non sono sola, c'è Gesù. Le bambine che ho incontrato erano buone, gentili, diverse da quelle di scuola, e insieme abbiamo cercato di vivere per Gesù. Ho fatto anche una piccola esperienza, prestando le mie scarpe a una bambina che doveva andare sul palco a raccontare anche lei la sua esperienza alla Mariapoli degli adulti. Ti abbraccio forte forte, Chiara. E la Mariapoli, come dicevamo, etimologicamente la città di Maria, è proprio un appuntamento tipico dei focolarini. Quindi, diciamo, per alcuni giorni si ritrovano adulti, giovani, bambini che arrivano dalle varie città e si ritrovano proprio con lo scopo di vivere un'esperienza di fraternità, naturalmente alla luce dei valori del Vangelo. Ma tornando alla nostra Beata, proprio da questa letterina emergono alcuni elementi che in seguito matureranno con grande forza, soprattutto, come vedremo, durante i 2 anni della malattia. Questi elementi sono la scelta di Dio e la piena adesione al Vangelo vissuto e la piena adesione alla volontà di Dio. E di questo fece il suo ideale di vita sino a coinvolgere addirittura la sua famiglia nel docile, possiamo dire, docile cammino di accettazione della volontà del Signore, che non fu affatto facile. E 3 realtà si distinguono e sono determinanti nella sua formazione in questo cammino di santità. E le 3 realtà sono la famiglia, che l'aiutò moltissimo come vedremo, la chiesa locale, in particolar modo il suo vescovo allora Monsignor Maritano, e il movimento dei focolarini. Lei, ancora adolescente e naturalmente con tutte le passioni della giovane età che agitavano il suo cuore, vibrava però interiormente per il vero amore, quello con la A maiuscola, per Gesù quindi, tanto da mettere al primo posto nella sua giornata l'Eucaristia. Eucaristia che ardeva nel poter ricevere ogni giorno. E pensate, pur sognando di formarsi una famiglia, sentiva Gesù come sposo e sarà sempre di più, diceva, il suo tutto, fino a farla ripetere, e dobbiamo dire lo ripeterà soprattutto nei dolori atroci della sua malattia, diceva così, se lo vuoi tu Gesù, lo voglio anch'io. E così, terminate le scuole elementari e poi anche le medie, la nostra beata Chiara Badano scelse il liceo classico. Perché? L'aspirazione a diventare medico per recarsi in Africa era sempre molto forte. Ma qui iniziò ad avere il primo dolore e infatti non fu compresa e neanche accettata da un insegnante. Praticamente il primo anno venne bocciata e a nulla valse la strenua difesa dei compagni di classe, insomma dovette ripetere l'anno. Dopo un primo momento di sconforto, sul suo viso riapparve però quello che era la serenità di prima, anche il suo sorriso. Anzi, lei affermò, amerò i nuovi compagni come ho amato quelli di prima, e offrì proprio questa sua prima sofferenza a Gesù. Come abbiamo detto, questa ragazzina viveva in pieno la propria adolescenza. Anche nella scelta dei vestiti amava il bello, l'armonia dei colori, l'ordine, ma non la ricercatezza. E alla mamma, che a volte la invitava a vestire abiti anche un po' più eleganti, no? Per la sua età, lei diceva, io vado a scuola pulita, ordinata, ciò che conta è essere belli dentro. E si trovava spesso a disagio se le facevano qualche complimento sul suo bell'aspetto e a volte lei esclamava, quanto è duro andare controcorrente. E molti giovani di oggi pensino la stessa cosa, andare controcorrente e andare verso Gesù. E quindi, diciamo, come pur essendo una ragazzina, non si atteggiava a maestra, non si sentiva su un piedistallo perché era ricercata, ben voluta, non faceva soprattutto prediche, anzi nel suo cuore continuava a ripetere, non devo dire di Gesù a parole, ma devo darlo col mio comportamento, quindi con l'esempio. E viveva davvero il Vangelo sino in fondo, rimanendo semplice, spontanea, era, possiamo dire, davvero un raggio di luce che riscaldava i cuori degli altri e percorreva, senza saperlo, la piccola via di Santa Teresa di Gesù Bambino. Pensate, nel gennaio del 1986 aveva 15 anni e in una riunione affermò: «Ho capito l'importanza di tagliare per essere e fare solo la volontà di Dio». E ancora quello che diceva Santa Teresina: «Prima di morire a colpi di spada, bisogna morire a colpi di spillo. Mi accorgo, diceva Chiara, che le piccole cose sono quelle che non faccio bene, oppure i piccoli dolori, quelli che mi lascio sfuggire. Così voglio andare avanti, amando tutti i colpi di spillo, quindi accettando ogni dolore, ogni contrarietà e sacrificando anche il mio orgoglio». E al termine fece questo proposito: «Voglio amare chi mi sta antipatico». È caratteristica questa cosa, ma lei, pensate, nutriva una grande devozione per lo Spirito Santo e si dispose a riceverlo nel sacramento della Cresima che Monsignor Maritano, vescovo di Aquile, amministrò il 30 settembre 1984. Si era preparata con grande impegno e lo invocò spesso, chiedendo luce, quella luce d'amore che l'aiuterà ad esserne una piccola ma meravigliosa scia luminosa. Nel frattempo, però, si inserì bene anche nella nuova classe, si sentiva compresa e tutto andò avanti così nella normalità, finché arrivò il giorno in cui che cambiò la sua vita. Praticamente nel corso di una partita di tennis sentì un lancinante dolore alla spalla sinistra. Era talmente forte questo dolore che la costrinse a lasciare cadere a terra la racchetta. Ovviamente tutti si preoccuparono e le fecero una lastra e dopo un'errata diagnosi si provvide al ricovero. Si fece la TAC, che evidenziò purtroppo un osteosarcoma, cioè un tumore. Era il 2 febbraio 1989. La Chiesa ricordava e ricorda in questa data la presentazione di Gesù al Tempio. Chiara allora aveva 17 anni e iniziò da qui la sua via crucis, con viaggi, esami clinici, ricoveri, interventi e cure pesanti da Pietra Ligure a Torino. Momento, cari amici, possiamo comprenderlo, terribile. Terribile perché comprese la gravità e anche le poche speranze che aveva e non parlò. Rientrata a casa dall'ospedale, pregò la mamma di non farle nessuna domanda. Non pianse, non si ribellò né si disperò. Si chiuse in un assorto silenzio di circa mezz'ora e quello spazio di tempo fu, possiamo dire, il suo orto del Getsemani, mezz'ora di lotta interiore, di buio, di passione, per poi mai più tirarsi indietro. Vinse nel suo cuore la grazia. «Ora puoi parlare, mamma», le disse, e sul suo volto tornò il sorriso di sempre, luminoso. Aveva detto sì a Gesù, quel sempre sì che aveva scritto da bambina su una piccola rubrica e che ripeterà, come vedremo, fino alla fine. E la mamma, anzi per asserenarla, non mostrò alcuna preoccupazione. «Vedrai, ce la farò, sono giovane». Il tempo passava implacabile e anche il male avanzò inesorabilmente, trasferendosi al midollo spinale. Lei però si informava di tutto, parlava con i medici, con gli infermieri. Anzi, abbiamo una registrazione in cui raccontava di una visita in ospedale quando gli iniettarono un medicinale tra le vertebre per attenuare le insopportabili contrazioni alle gambe ormai da tempo paralizzate, e incise la cassetta per i suoi amici dei focolarini. E per mantenere Gesù in mezzo a noi, diceva, cosa importantissima in questo periodo, questa è la registrazione di Chiara Badano, dice ai suoi amici: «Vi volevo raccontare in breve una mia esperienza che ho fatto a Torino. Mi sono ricoverata per una visita specialistica. La paura era tanta perché in quel momento non capivo cosa mi avrebbero fatto. Ho capito che si trattava di un piccolo intervento con anestesia locale. È stata un'esperienza bellissima, perché quando i sanitari hanno iniziato a fare questo piccolissimo intervento, pur fastidioso, è arrivata una persona, una signora, con un sorriso luminosissimo, bellissima. Si è avvicinata, mi ha preso la mano e mi ha fatto coraggio. Io ero convinta che questa persona fosse del movimento, cioè di Focolarini, perché quella luce era proprio del nostro ideale. Ero dell'idea che i miei, che erano rimasti fuori, l'avessero fatto entrare. A un certo punto, come è arrivata, è sparita. Non l'ho più vista. Ma sono stata invasa da una gioia grandissima e mi è scomparsa la paura. Quando sono uscita, ho chiesto ai miei genitori chi fosse, ma loro non la conoscevano. Ecco, ripensandoci, non mi so spiegare cosa fosse accaduto, ma sentivo forte di ringraziare Dio. Razionalmente pensavo a un caso, ma poi mi chiedevo, perché è arrivata proprio in quel momento, proprio in quella circostanza, e soprattutto con quella luce, direi senza esagerare, soprannaturale? Mi sembrava un angelo che la Madonna mi aveva messo vicino. È stato un momento di Dio profondissimo. Ecco, in quell'occasione ho capito, se fossimo sempre pronti a tutto, quanti segni Dio ci manderebbe. Ho compreso anche quante volte Dio ci passa accanto e noi non ce ne rendiamo conto. Intanto la paralisi bloccava tutti i suoi movimenti, ma lei affermava, se adesso era talmente grande l'unione con Gesù che lei diceva queste parole, se adesso mi chiedessero se voglio camminare direi di no, perché così sono più vicina a Gesù. E non solo non perse la pace, ma rimase serena, forte, dicevamo prima una roccia, una fede incrollabile, e non ci fu mai paura in lei. Lei diceva Dio mi ama immensamente, e lo diceva continuamente, aveva una fiducia incrollabile in Dio, nel suo papà buono come lo chiamava, e volle compiere sempre e per amore la sua volontà. E a questo proposito, dicevamo, viveva momenti di unione con il Signore e ripeteva, voi non potete neppure immaginare qual è adesso il mio rapporto con Gesù. Avverto che Dio mi chiede qualcosa di più grande. Mi sento avvolto in uno splendido disegno che a poco mi si svela. Si trovava, cari amici, a un'altezza da cui non avrebbe voluto mai scendere. Lassù, diceva, dove tutto è silenzio e contemplazione. Addirittura alcuni giorni rifiutava la morfina perché le toglieva lucidità e dice «Io non ho più niente e posso offrire solo il dolore a Gesù», aggiungendo «Ma ho ancora il cuore e posso sempre amare». Era diventata questa ragazza tutto un dono, un fuoco d'amore offerto a Gesù e offriva se stessa per la diocesi, per i focolarini, per la gioventù, per le missioni e sorreggeva con la sua preghiera e trascinava nell'amore chiunque le passasse accanto. Umile, dimentica di sé, era sempre disposta ad accogliere nonostante il dolore, ad ascoltare quanti la avvicinavano, in particolare i giovani, a cui lasciò un ultimo messaggio e disse «I giovani sono il futuro, io non posso più correre, ma vorrei passare loro la fiaccola come alle Olimpiadi. I giovani, dice, hanno una vita sola e vale la pena di spenderla bene». Abbandonandosi totalmente alla volontà di Dio, non chiese mai espressamente il miracolo della guarigione e si rivolse alla Vergine Maria scrivendole un biglietto, questo biglietto «Mamma Celeste, tu lo sai quanto io desideri guarire». Ma se non rientra nella volontà di Dio, ti chiedo la forza per non mollare mai, umilmente, tua Chiara. e come un bambino si abbandonava all'amore di Gesù. Mi sento così piccola, diceva, e la strada da percorrere è così ardua, ma è lo sposo che viene a trovarmi. Si fidava totalmente di Dio, anzi invitava la mamma a fare altrettanto. Non ti preoccupare, le diceva, quando io non ci sarò più, tu fidati di Dio e vai avanti, poi hai fatto tutto. Aveva una fiducia incrollabile. Scrisse questa lettera in cui affermò: ho scoperto che Gesù abbandonato è la chiave dell'unità con Dio e voglio sceglierlo come primo sposo e prepararmi per quando viene. Preferirlo. Ho capito che posso trovarlo nei lontani, negli atei, e che devo amarli in modo specialissimo, senza interesse. Ho riscoperto il Vangelo sotto una nuova luce. Ho capito che non ero una cristiana autentica, perché non lo vivevo sino in fondo. Ora voglio fare di questo magnifico libro il mio unico scopo della vita. Non voglio e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Come per me è facile imparare l'alfabeto, così deve esserlo anche vivere il Vangelo. Ho riscoperto questa frase che dice: date e vi sarà dato. Devo imparare ad avere più fiducia in Gesù, a credere al suo immenso amore. In questo periodo, scrive Chiara, le occasioni per abbracciare il mio sposo non sono certo mancate. Infatti da circa una settimana ho la febbre molto alta e ciò, essendo già debole, mi debilita molto, ma sono totalmente occasioni d'amore che ho per essere ancora più radicate in Dio. Offro il mio nulla, affinché lo Spirito Santo elargisca sui giovani i suoi doni di amore, di luce, di pace, affinché tutti comprendano qual dono gratuito e immenso sia la vita e quanto sia importante viverla ogni attimo nella pienezza di Dio. Mi sento così piccola e la strada da compiere è così ardua, spesso mi sento sopraffatta dal dolore, ma è lo sposo che viene a trovarmi. Sì, io ripeto, se lo vuoi tu Gesù, lo voglio anch'io. E continua: qui tutti chiedono il miracolo, ma io non riesco a chiederlo. Forse questa mia difficoltà nel domandarglielo sta nel fatto che sento che non rientra nella sua volontà. Offro tutto, i miei fallimenti, i dolori, le gioie, tutto a lui, ricominciando ogni qualvolta la croce fa sentire tutto il suo peso. L'importante, scrive, è fare la volontà di Dio. Io magari avevo dei piani su di me, ma Dio ha pensato a questo. La malattia mi è arrivata al momento giusto. Voi però non potete neppure immaginare qual è adesso il mio rapporto con Gesù. Avverto che Dio mi chiede qualcosa di più grande. Forse potrei restare su questo letto per anni, non lo so. A me interessa solo la volontà di Dio, fare bene quella, nell'attimo presente, stare al gioco di Dio. Sono uscita dalla vostra vita in un attimo. Come avrei voluto fermare quel treno in corsa che mi allontanava sempre di più. Ma ancora non capivo, ero troppo assorbita da cose insignificanti, futili e passeggere. Un altro mondo mi attendeva e non mi restava che abbandonarmi, ma ora mi sento avvolto in uno splendido disegno che a poco mi si svela. I dolori erano sempre più forti, ma lei non piangeva. Trasformava il dolore in amore vero, purissimo, e allora volgeva lo sguardo al suo Gesù abbandonato. Era un'immaginetta di Gesù coronato di spine, posta sul comodino accanto al letto. E alla mamma che le chiedeva se soffrisse molto, rispondeva con semplicità: Gesù mi smacchia con la varichina anche i puntini neri, e la varichina brucia. Così quando arriverò in paradiso sarò bianca come la neve. E nelle notti insonni cantava. E dopo una di queste dolorose agonie, forse la più dolorosa, la più tragica, disse: Soffrivo molto fisicamente, ma la mia anima cantava, confermando ancora una volta la pace grande e l'amore nel suo cuore. Proprio negli ultimi giorni di vita ricevette da Chiara Lubich il nome di Luce e la Lubich le scrisse perché. Perché nei tuoi occhi vedo la luce dell'ideale vissuto sino in fondo, la luce dello Spirito Santo. E proprio in questi ultimi mesi di vita il suo rapporto con la fondatrice dei Focolarini divenne sempre più forte. E la nostra Beata le scrisse il 20 dicembre 1989, praticamente mancava circa un anno alla morte. E Chiara Badano scrisse così alla Lubich: da 2 giorni sono ritornata dall'ospedale di Torino, dove da circa 10 mesi, per l'ennesima volta, mi sono recata a sottopormi a un ciclo chemioterapico. Il mio stato di salute attuale non è dei migliori, perché il mio fisico ormai è duramente provato a causa delle terapie. L'ultimo ricovero coincideva con il congresso Gen 2 a Castel Gandolfo, generazione 2, cioè degli adulti. Una mattina, scrive Chiara Badano, scrive alla Lubich, stavo particolarmente male. Sapevo però che proprio quel giorno le Gen avrebbero fatto una preghiera per me. Anch'io ho sentito il desiderio di unirmi a loro e con la mamma l'abbiamo fatta anche noi. Siccome questo è l'anno dello Spirito Santo, oltre alla mia guarigione ho chiesto all'Eterno Padre di illuminare con il suo Spirito i responsabili del raduno e per tutte le Gen la sapienza e la luce. È stato proprio un momento di Dio. Soffrivo molto fisicamente, ma l'anima cantava. Abbiamo continuato a pregare a lungo perché quel momento non passasse. Ora ti chiedo un regalo per Natale, una parola di vita per me, una per papà e una per la mamma. Chiedo troppo? E la serva di Dio, Chiara Lubich, le rispose immediatamente, e le rispose così: avrei saputo che il congresso Gen è stata una vera manifestazione dello Spirito Santo, grazie anche a te. Ti sento tutta impegnata e protesa a corrispondere all'amore di Dio e a dirgli il tuo continuo sì. Io ti seguo costantemente con la mia preghiera e con tutto il mio amore. Ho scelto le parole di vita che desideravi. Ecco la tua. Chi rimane in me ed io in lui, questi porta molto frutto. Giovanni 15,5. Alla tua mamma propongo invece questa. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Romani 12,12. E al tuo papà, ti amo, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Salmo 17,2,3. E continua la Lubich. Chiedo allo Spirito Santo per te il dono della fortezza, perché la tua anima, per l'amore a Gesù abbandonato, possa sempre cantare. Parole bellissime. E proprio nella nostra Beata si manifestava allora solo un grande desiderio, andare in paradiso, dove diceva sarò tanto, tanto felice, anzi si preparava alle nozze e chiese di essere rivestita, pensate, con un abito da sposa, bianco, lungo e semplice, e predispose anche la liturgia della sua messa. Scelse le letture e i canti, nessuno disse avrebbe dovuto piangere, ma cantare forte e fare festa, perché dice... Chiara incontrava Gesù. Gioirò con lei a ripetere, ora Chiara Luce vede Gesù. Poco tempo prima aveva affermato con certezza, quando una giovane di 17-18 anni va in cielo si fa festa. E le offerte della sua messa dovevano essere destinate tutti ai bambini poveri dell'Africa, come aveva già fatto con il denaro ricevuto in regalo per i suoi 18 anni. E la motivazione era questa. Io ho già tutto. Thank you. così la nostra beata era pronta per le nozze. E venne quel giorno. Fu domenica 7 ottobre 1990, giorno della risurrezione del Signore e festa della Santa Vergine del Rosario. La beata Chiara Badano raggiunse il suo tanto amato sposo, Gesù. Pensate, poco prima aveva sussurrato l'ultimo saluto alla mamma con una raccomandazione. Ciao, sii felice perché io lo sono. Aveva 19 anni. Al suo funerale, celebrato due giorni dopo dal suo vescovo, parteciparono centinaia e centinaia di persone. Soprattutto c'erano tanti giovani. Eppur tra le lacrime l'atmosfera era piena di gioia. I canti che si elevarono a Dio esprimevano davvero la certezza che ora lei era nella luce vera. Volando in cielo, ha voluto però lasciare ancora un dono, le corne di quei meravigliosi occhi che col suo consenso sono stati donati a due giovani ridando loro la vista. E oggi questi due giovani, anche se sconosciuti, sono la reliquia vivente della nostra beata. E anche la Chiesa ha voluto premiare questa fedeltà, questa grandezza e questa eroicità. Infatti, alcuni anni dopo, l'11 giugno del 1999, pensate era la festa del Sacro Cuore di Gesù, Monsignor Maritano, il Vescovo di Acqui, iniziò ufficialmente l'inchiesta per la canonizzazione di Chiara Badano. E il Vescovo affermò: «Mi è parso che la sua testimonianza fosse significativa, in particolare per i giovani. C'è bisogno di santità anche oggi, c'è bisogno di aiutare i giovani a trovare un orientamento, uno scopo, a superare insicurezze e solitudine, i loro enigmi di fronte agli insuccessi, al dolore, alla morte, a tutte le loro inquietudini. È sorprendente, dice Monsignor Maritano, questa testimonianza di fede, di fortezza da parte di una giovane di oggi. Colpisce, determina molte persone a cambiare vita e ne abbiamo testimonianza quotidiana». E così il 21 febbraio del 2004, dopo aver raccolto e trascritto il materiale di una presunta guarigione miracolosa avvenuta per sua intercessione a Trieste, avvenne a Trieste questa guarigione nel 2001, visto che allora era presunta, non era ancora confermata, si richiedeva al Vescovo, a Monsignor Maritano, di iniziare il processo diocesano. E qui il processo diocesano venne istituito proprio il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, e concluso il 29 settembre del 2004. Ecco, e vi leggo adesso, cari amici, quello che sono, diciamo, è stato il miracolo che ha permesso appunto la beatificazione di Chiara Badano e anche la lettura breve degli atti in cui si descrive questa guarigione in modo molto sintetico. Gli atti dicono: guarigione del giovane Andrea Bartole, questo era un adolescente allora, guarigione del giovane Andrea Bartole da grave stato di shock settico, sepsi beningogoccica, sindrome di Arts complicata da broncopolmonite basale destra, sindrome di Dick, insufficienza renale acuta, manifestazioni cutanee ed emorragiche, con tendenza a confluire ematomi generalizzati e sofferenza ipossemica generalizzata, sofferenza del sistema nervoso centrale diffuso. Insomma, questo ragazzo era messo veramente malissimo. E qui il 3 luglio del 2008 il Santo Padre autorizzò il Cardinale José Saraiva Martins, che allora era prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, a promulgare con decreto la venerabilità di Chiara Badano. Poi, l'anno dopo, il 15 gennaio del 2009, i medici, che erano stati convocati dalla Congregazione delle Cause dei Santi, confrontando tra loro le rispettive valutazioni su questo caso, su questo miracolo, perché di questa cosa si trattava, avvenuto appunto a Trieste, unanimemente giunsero alla conclusione della inspiegabilità della guarigione che fu, ci viene detto, rapida, totale e duratura, appunto di questo ragazzino, di Andrea Bartoli di Trieste. E lo stesso anno, siamo nel dicembre del 2009, Papa Benedetto XVI firmò il decreto di approvazione e l'anno successivo, il 25 settembre, ci fu il rito di beatificazione proprio nel santuario della Madonna del Divino Amore a Roma, presieduta proprio dal Cardinale Angelo Amato. E nel corso della celebrazione venne annunciata anche la data per la festa liturgica della nostra Beata, che è il 29 ottobre. Ma volevo concludere, cari amici, questa trasmissione con solo due parole che disse proprio di lei Papa Benedetto XVI. Disse così Papa Benedetto: «Vi invito a conoscerla. La sua vita è stata breve, ma è un messaggio stupendo. Chiara è nata nel 1971 ed è morta nel 1990 a causa di una malattia inguaribile. 19 anni pieni di vita, di amore, di fede. 2 anni, gli ultimi, pieni anche di dolore, ma sempre nell'amore e nella luce, una luce che irradiava intorno a sé e che veniva da dentro, dal suo cuore pieno di Dio. Com'è possibile questo?» dice il Papa. «Come può una ragazza di 17-18 anni vivere una sofferenza così, umanamente senza speranza, diffondendo amore, serenità, pace e fede?» Evidentemente, dice, si tratta di una grazia di Dio, ma questa grazia è stata anche preparata e accompagnata dalla collaborazione umana, la collaborazione di Chiara stessa in questo cammino di santità, certamente, ma anche dei suoi genitori e dei suoi amici.